Radio 24 Reportage. Venezia e l'arte contemporanea di Adriana Fracchia. Contemporanea invade sempre di più le pagine dei settimanali illustrati. Le fiere e i musei si riempiono di visitatori, il numero dei collezionisti si allarga, sempre più città danno vita al proprio museo d'arte contemporanea o alla propria biennale. La crisi economica, che in altri settori ha colpito duramente nel mondo dell'arte, ha prodotto certamente un arresto della crescita vertiginosa dei prezzi e degli acquisti, ma non ha toccato le fondamenta del sistema, che restano solide. Né ha spento l'entusiasmo della folla crescente di appassionati che continuano a popolare le grandi manifestazioni come e più di prima. Cerchiamo di capire perché l'arte contemporanea è diventata così importante. Mostre, festival, nuovi musei nati in varie città e tante biennali sono, abbiamo detto, un sintomo evidente dell'interesse verso l'arte contemporanea. Nell'ultimo ventennio, in particolare, le biennali hanno acquistato un'importanza fondamentale per quanto riguarda la produzione e la divulgazione dell'arte contemporanea e si configurano sempre più come momenti dell'immaginario collettivo globale. Pierluigi Sacco, uno dei fondatori del Festival dell'Arte Contemporanea di Faenza. La biennalizzazione dell'arte è un fenomeno che sta assumendo effettivamente una dimensione globale, perché abbiamo ormai un affastellamento tale di iniziative di questo genere che praticamente non passa mese che non si apra una biennale da qualche parte del mondo. Un tema che collega l'arte ad una serie di questioni: lo sviluppo locale, l'identità dei territori e delle città, il rapporto dell'arte con un pubblico sempre più vasto e sempre più eterogeneo. Lei di questa proliferazione di biennali cosa ne pensa? Io penso che sta diventando una strategia, se vogliamo, di marketing territoriale, di affermazione dell'identità. Le biennali rappresentano oggi un po' un equivalente dell'architettura iconica, cioè uno dei modi di affermare l'identità di un territorio e quindi di fatto uno strumento sofisticato di marketing territoriale. Il problema è che le biennali hanno bisogno di una ragione che non sia semplicemente la promozione di un territorio, ma ha bisogno di un suo radicamento effettivo e spesso di trovare un proprio modello originale che abbia una sua necessità nel panorama dell'offerta internazionale. Questo non sempre accade. E quindi per questo motivo è vero che tante biennali nascono, però molte hanno vita breve perché effettivamente non riescono a trovare una giusta dimensione. Invece di essere una struttura permanente, sono delle attività periodiche che vengono svolte, ma che di fatto hanno la stessa funzione: affermare attraverso la cultura l'identità di un luogo. Quello dell'arte contemporanea è un mercato molto forte in questo momento, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa. E puntare sull'arte può essere più conveniente che investire in borsa. Ma gli esperti consigliano una certa prudenza. Per fare un buon investimento sono tante le variabili da tenere in considerazione. Oltre alla scelta oculata dell'artista, è fondamentale puntare sul periodo migliore della sua produzione, sapere da quante e quali mani siano passate le sue opere, da quali gallerie e quali case d'asta. E poi ogni opera d'arte porta con sé una storia che influenza fortemente il suo valore. La regola numero uno per un buon investimento riguarda poi il piacere e l'emozione che un'opera provoca. L'arte come investimento, dunque, ma anche ricerca della qualità. A sostenerlo Alessandro Cappello, project manager del MIART, la Fiera Internazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Milano. In questo momento di crisi non c'è un investimento più sicuro dell'arte. Qualche esempio: Lucio Fontana, Piero Manzoni, Alberto Burri, Pistoletto, Pomodoro, Morandi, Marini, sono artisti su cui oggi i collezionisti hanno deciso di puntare in modo molto forte. Quindi la contemporanea italiana tiene meglio delle altre grazie anche alle minori oscillazioni e a una generale maggiore oculatezza del mercato italiano. Quindi si può dire che investire in arte contemporanea conviene? Assolutamente sì, e dico che l'arte italiana in questo momento vive un momento di grazia e lo si vede anche nel fatto che importanti gallerie, ma anche case d'asta, proprio in un momento di crisi per fare cassa, vendono gli artisti italiani. L'arte in questo momento di crisi è vincente. I collezionisti italiani sembrano seguire molto bene questo mercato. Credo, a detta anche di molti, abbiamo un collezionismo importante e proprio in un momento di crisi credo che la figura del collezionista diventerà ancora più importante, perché si farà ancora più selezione sia all'interno del collezionismo stesso sia sul mercato. Ci sarà anche una selezione degli artisti e rimarranno quelli bravi, quelli che meritano di stare sul mercato, non quelli valorizzati oltre il dovuto dai media. Tant'è che in questo momento di crisi chi ha comprato autori di questo genere si trova ad aver penalizzato il proprio investimento, addirittura del 30-40%. Damien East sicuramente è uno di questi che ha avuto in questo momento un abbassamento sensibile del costo delle sue opere, oggettivamente, ma sono i dati che lo dicono. E la città di Venezia è certamente ormai una delle punte di diamante del nostro paese in tema d'arte. Con i suoi 20 milioni di turisti all'anno è l'indiscusso crocevia mondiale dell'arte contemporanea. Da giugno poi lo è ancora di più grazie all'apertura di una serie di nuovi spazi e all'inaugurazione di varie mostre, il cui apice è rappresentato dalla 53esima edizione della Biennale. La formula è quella del chilometro dell'arte lanciata dal sindaco Massimo Cacciari, lungo un tracciato che va dall'Accademia, che si affaccia sul Canal Grande, al Museo Guggenheim, dal Museo della Fondazione Vedova ai Magazzini del Sale, con il suggestivo allestimento di Renzo Piano, alla collezione di opere di François Pinault, il magnate francese della moda già patron di Palazzo Grassi, che ha fatto restaurare da Tadao Ando la punta della dogana. Il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari. Per Venezia, come grande capitale artistica culturale che bisogna far rivivere ogni giorno, cioè non è una rendita assicurata. A Venezia devono poter lavorare i grandi architetti, devono potersi tenere stage, seminari, convegni per gli artisti contemporanei, per i giovani. Venezia può vivere soltanto di questo, questo è il suo core business, direbbero gli economisti, e quindi se lo dimentica decadrà anche dal punto di vista economico, commerciale, perché tutta l'economia veneziana e tutta l'economia del Veneto si regge in gran parte sull'eccezionalità di Venezia e sulla sua capacità di produrre cultura e non soltanto di tenere aperto qualche museo. Venezia, dunque, capitale dell'arte contemporanea, alla cui immagine connotata dall'antico si aggiorna così anche grazie ai nuovi spazi. Nuovi spazi come quello citato prima della Fondazione Vedova ai Magazzini del Sale alle Zattere. A progettare l'allestimento l'architetto genovese Renzo Piano, che ha pensato ad una grande macchina robotizzata capace di agganciare le opere dell'artista e di portarle verso i visitatori per poi ritirarle e sostituirle con altre. Una maniera dinamica, totalmente vedoviana, di mostrare l'oggetto artistico e un omaggio alla funzione originaria dello spazio, quella di magazzino, in passato luogo di movimentazione delle merci. Il presidente della Fondazione Vedova, Alfredo Bianchini, intervistato da Silva Menetto. Presidente, lei ha detto se non ci fosse stato questo lascito di Vedova non ci sarebbe stato tutto questo, però oggi Vedova sarebbe contento. Sì, Vedova sarebbe entusiasta, perché per lui il dialogo con il mondo, la dialettica con l'universo, come lo chiamava lui, incominciava da qui, proprio da questa fondamenta, perché questo era il suo punto di riferimento, il suo punto stabile, la casa e i saloni dove già aveva lavorato qua dentro, e quindi lui sarebbe impazzito perché era il suo luogo e perché c'era il movimento, come ha detto Renzo Piano. Parte dei Magazzini del Sale erano casa e studio dello stesso Vedova e ora ospitano anche i laboratori di scultura, decorazione e fonderia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Un progetto per rendere questa parte della città di Venezia un vero e proprio polo per l'arte e per la formazione artistica. Un riconoscimento postumo, dunque. Oltre all'esposizione delle opere di Vedova, il museo diventa sede di un centro studi a lui dedicato. Ancora Alfredo Bianchini. Difficoltà delle fondazioni culturali non ce le nascondiamo. Che cosa potrà fare la Fondazione Vedova per riuscire ad andare avanti sempre con queste idee? Beh, la Fondazione Vedova, diciamo, ha un lascito importante del maestro e può contare su molti amici, e quindi facendo un'opera mirata, equilibrata, molto puntata sullo scambio fra le opere di Vedova e di altri autori attraverso i musei, io penso che con questa struttura che ormai è fatta, che non ha bisogno se non di una manutenzione, noi riusciamo ad andare avanti. Poi, per esempio, noi collaboreremo con i giovani dell'Accademia dove Emilio Vedova ha lavorato. E i giovani dell'Accademia dove Emilio Vedova ha lavorato li abbiamo cominciato a gratificare. Abbiamo regalato 100 tele bianche che il maestro non ha potuto, evidentemente, perché nell'ottobre 2006 è morto, però sono un simbolo di questo lavoro. Io penso che con passi equilibrati ce la faremo. Quindi lei pensa anche a una possibilità di mostre temporanee qui dentro? Sì, mostre temporanee e soprattutto un confronto fra artisti contemporanei e moderni e della scuola, cioè non scuola, ma insomma dell'area di Vedova, pensiamo a Baselitz per esempio, che era molto vicino anche come amicizia vedova. Sì, questo può essere anche un museo, nel senso che è tecnologicamente perfetto. Qui sotto c'è un'impiantistica inimmaginabile. Questo è stato fatto per ragioni prospettiche, perché dà un senso di profondità, si eleva da piano zero fino a 1,70, ma sotto c'è il mondo della tecnologia.